Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey, ben ritrovate con Van Loon, il vostro appuntamento del sabato pomeriggio con la storia, o meglio, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Siamo alla seconda puntata di questa nuova stagione, siamo entrati con musica e storia nella programmazione dell'anno. Come abbiamo detto, le tematiche saranno veramente tante quest'anno e anche in questa puntata parliamo di musica. Chissà che il nostro programma non stia prendendo un'altra direzione, assolutamente no, prima o poi faremo anche qualcosa di noioso come nostro solito. Entriamo naturalmente con la musica, entriamo tramite un libro, e un libro a cui teniamo molto per una serie di motivi. Uno ve lo diciamo fra poco, un altro naturalmente perché va a toccare delle tematiche che perlomeno a chi vi parla, ma sicuramente ad altri membri della redazione, è una tematica che sta particolarmente a cuore. Per presentare questo libro e per presentare l'autore o l'autrice di questo libro, entriamo dalla copertina. Un percorso un po' strano. È un bel libro di un bel blu. In copertina c'è un bel ritratto di Johnny Rotten, un personaggio che sicuramente qualcuno avrà modo di conoscere, per cui con la sua voce entriamo veramente dalla copertina in questo libro. Buon ascolto. Eccoci, siamo su Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Abbiamo preso un inizio decisamente accelerato con delle note che smuovono sempre qualcosa anche a quasi 20 anni di distanza dalla prima volta che lo sentite. Abbiamo sentito la voce di Johnny Rotten e tutto il resto messo dai Sex Pistols, e entriamo dalla copertina nel libro. Il libro di cui vi parliamo è Siamo nati da soli, punk, rock e politica in Italia e in Gran Bretagna 1977-1984, edito dalla casa editrice Pacini e pubblicato nella collana di storia Le ragioni di Cleo, e l'autrice è naturalmente la nostra Alessia Masini. Ben ritrovata. Ciao. Sulle frequenze di Van Loon. A tutti e a tutte. Naturalmente Alessia Masini è un volto noto non solo di Van Loon, ma anche un volto noto dell'emittente nazionale, diciamo. Noi l'abbiamo avuta in questi anni in redazione come Priscilla, e finalmente è uscito questo suo bel libro. Questa fatica. Una grande fatica, esattamente, che è stato il frutto della sua tesi di dottorato, più delle ricerche collaterali della nostra Alessia. E delle grandi chiacchiere che si sono poi prodotte qua dentro. Esattamente, perché come sapete il punk è un qualcosa che ci sta molto simpatico, e proprio di questo iniziamo a ragionare su questo libro. Allora Alessia, io partirei con una domanda che può sembrare un po' larga. Io ti chiederei di raccontarci che cosa è stato il punk, cioè diciamo di presentarcelo, però attenzione, mettiamo subito come condizione il fatto che non è che deve parlare l'Alessia appassionata di punk, l'Alessia che va ai concerti il sabato sera, ma l'Alessia storica. Quindi Alessia Masini, o dottoressa Alessia Masini, ci può raccontare che cosa sia il punk e come ha costruito e come ha raccontato questo fenomeno culturale e musicale all'interno della sua ricerca? Ecco, allora, come studiosa io rispondo subito al fatto che secondo me il punk è un fenomeno strategico per indagare che cosa è successo alla fine degli anni, tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 nell'universo giovanile, sia dal punto di vista dei consumi culturali che dal punto di vista della trasformazione dell'attivismo giovanile. Quindi io ho proprio preso in considerazione questo periodo storico e questo fenomeno culturale, ma anche musicale e politico, perché era in grado, secondo me, di dirci delle cose e di narrarci dei cambiamenti da una prospettiva inedita rispetto a come sono stati raccontati fino adesso quegli anni. Perché magari per la maggior parte delle volte noi sappiamo che gli anni 70, abbiamo sentito parlare degli anni 70 come anni di piombo, no? E poi degli anni 80 immediatamente dopo come anni di riflusso, quindi di trionfo del privato, di fuga dalla politica, di rifiuto, eccetera. Secondo me invece non è poi così lineare il passaggio tra anni 70 e 80, perché comunque c'erano anche nel tempo, ci sono state tante persone intelligenti che lo hanno poi detto, anche in tempo reale, per esempio Pier Vittorio Tondelli, uno dei miei scrittori preferiti in assoluto, è stato il primo ad avere secondo me un punto di vista, una prospettiva, una sensibilità diversa sui fenomeni giovanili rispetto invece a quello che i giornalisti all'epoca dicevano come degrado, degenerazione, caos esistenziale, eccetera. E lui infatti aveva scritto ogni tanto anche di punk, oppure di quanto la musica e i raduni rock avessero acquisito una nuova importanza nella vita dei giovani anche per esprimere un'opinione politica. Allora io, a partire da queste lenti nuove, ho cominciato a studiare il punk da questo punto di vista. Secondo me doveva dirci qualcosa di nuovo, perché comunque è un fenomeno che ha una grandissima legittimità nella storia. Io ho cercato di restituire e di restituirgli uno spazio nella storia, no? Quella con la S maiuscola. Dopodiché, vai, prego. E no, cioè mi inserivo giusto per fare una notazione, per permettere a chi ci ascolta di entrare un po' nel libro. Cioè l'entrata del punk nella storia con la S maiuscola, la nostra Alessia lo fa, ce lo conduce in questo percorso facendo un lavoro che è da storica effettivamente, nel senso che prende quegli elementi che sono caratteristici del punk, e adesso magari sicuramente ce lo racconterà, come possono essere le fanzine, una su tutte, i racconti, i dischi, e li utilizza come una fonte, cioè come un qualcosa che ci racconta qualcosa di un passaggio storico in Gran Bretagna, naturalmente, e in Italia. Ecco, ci puoi raccontare quali sono stati i materiali che hai utilizzato e che cosa erano queste cose e che iniziare a entrare magari in quello che ti hanno raccontato questi documenti? Sì. Infatti, tra le altre cose, io mi sono accorta anche che per questo periodo storico c'erano pochissime fonti, no? Spesso magari per quanto riguarda anche i militanti e gli attivisti del movimento del 77 ci sono tantissime memorie e testimonianze, che è una ricchezza, però comunque andrebbero studiate tantissime altre cose, c'è tanto lavoro da fare. La stessa cosa vale per il punk, nel senso che negli anni sono stati pubblicati tantissimi libri, raccolti di racconti o di testimonianze o documentari che partivano sempre da questo tipo di fonte, cioè la memoria personale. Allora io mi sono detta, allora, siccome conosco bene il punk e so che produce tanto dal punto di vista anche proprio per la controinformazione, e la musica è un mezzo di comunicazione nel punk, mi sono andata a cercare, cioè a fatica, però sono andata a cercarmi quello che i punk avevano prodotto fisicamente all'epoca, cioè le fanzine, i dischi, tutto quel mondo dell'autoproduzione, di controinformazione, che ha dato vita a veramente accumuli e cumuli di carta polverosa che adesso purtroppo è nascosta a casa di poche persone che hanno deciso di conservarle, perché negli archivi non si trovano, non vengono proprio riconosciute come fonti per la storia o per la storia dei giovani, per esempio, nel passato, negli anni 70 e 80, quindi non ci sono neanche negli archivi dei movimenti, per esempio, le fanzine del punk. Quindi sono stata aiutata, per fortuna, da degli amici, un'amica in particolare che è Laura Carroli, che è un'altra voce di Radio Città Fugico, conduce un programma Please Kill Me la domenica sera, E quindi lei è la storia del punk bolognese, e perché lei ha fondato un'etichetta indipendente che si chiamava Attack Punk Records, che ha prodotto il primo disco di CCCP. Il suo gruppo erano i Raff Punk, insomma uno dei gruppi più in vista della scena e del punk anarcopacifista bolognese dell'epoca. Lei per fortuna ha conservato tantissimo materiale. E poi me lo sono andata a studiare, proprio l'abbiamo guardato insieme, ci siamo mangiate un sacco di polvere insieme. Poi dopo sono andata anche all'archivio della libreria Primo Moroni a Milano, anche lì ho trovato una quantità di cose incredibili ancora da catalogare, da sistemare. Quindi comunque di materiale ce n'è, va solo riconosciuto come materiale legittimo per la ricerca storica. Sì, averci un po' la pazienza di mettersi lì a leggere questi documenti che, cioè, a me personalmente sono piaciuti molto, cioè ho avuto modo di maneggiare delle ristampe purtroppo di alcune fanzine, penso alla più famosa TVOR, Teste Vuote Ossa Rotte, oppure Attacco Progressivo di Perugia. Cioè sono materiali che bisogna un po' perderci un po' di pazienza per andare a leggere queste cose scritte a mano, però sono di una bellezza straordinaria e raccontano qualcosa di come venivano fatte e di chi le faceva, che è molto molto interessante. Allora, adesso Alessia ci ha parlato di Bologna, noi sentiamo un pezzo che proprio a Bologna è dedicato, si intitola Skunk Block Bologna, degli Scritti Politti, un gruppo particolare che prendeva il nome dagli Scritti Politici di Gramsci, declinato male perché erano comunque un po' anglosassoni, diciamo, e che erano rimasti un po' colpiti da questi scontri che c'erano stati nel 77 a Bologna. Beh, buon ascolto, che è un bel pezzo questo. And push on the same holiday. Put on a book and she has on a clue. Two number six and she has on an answer. No one wants to listen and there's no one wants to know. Someone's got a question that she doesn't want to see. Put on a book and she has on a view. Two number six and there is on a vision. To listen, but there's no one wants to know. Someone with a question that she doesn't want to see. Bene, siete sempre su Valluna, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Frey in questa giornata sta piacevolmente chiacchierando con la nostra Alessia a.k.a. Priscilla Masini, che abbiamo conosciuto nelle nostre puntate e che incontriamo oggi perché ci sta raccontando il suo libro Siamo nati da soli, punk, rock e politica in Italia e in Gran Bretagna 1977-1984, edito da Pacini Editrice, e un libro che verrà presentato nelle prossime settimane a Bologna. Quindi poi facciamo una vi racconterò quali sono i miei prossimi appuntamenti, così possiamo anche conoscerci di persona. E intanto vi dico che c'è una bellissima pagina Facebook in cui, che si chiama per l'appunto Siamo Nati Da Soli, giusto? In cui potete seguire l'agenda degli appuntamenti della nostra Alessia Masini. Allora, Alessia, stiamo parlando di Bologna. Purtroppo, ecco, piccola premessa, il libro racconta molto della Gran Bretagna, è bellissimo. Non è piaggeria, ma è veramente molto interessante, perché Alessia ci racconta non solo il punk, lo sviluppo delle controculture legate al punk, ma anche ci racconta la percezione che di questi fenomeni c'è stata, in particolare oltre Manica, nel come sono stati raccontati dal mondo del giornalismo musicale, dal mondo dell'accademia, da come sono entrati nel movimento politico. Non abbiamo purtroppo tutto questo tempo a disposizione, per cui giochiamo in casa parlando di Bologna. Il punk, verrebbe da dire un po' così alla buona, è quasi nato a Bologna, insomma. Cioè... Sì, quell'italiano secondo me sì, perché poi, cioè, partire da lontano per me, cioè partire dall'Inghilterra mi è servito per capire, quindi tutta la prima parte del libro è dedicata all'Inghilterra e questo soggetto ideologico punk che veniva trasmesso attraverso i media, no, che poi è arrivato in Italia, mi è servito per capire qual è stata l'interazione, no, tra la dimensione simbolica del punk che veniva poi raccontata dai media, dalle industrie culturali, dalle industrie discografiche, e la condizione invece materiale dell'Italia dell'epoca. Allora, nell'Italia dell'epoca, alla fine degli anni 70, nel 77 in particolare, c'era un fermento politico e giovanile incredibile. Il punk quindi si è innestato in una situazione già piuttosto effervescente. Quindi quando è arrivato in Italia è arrivato attraverso i canali classici delle controculture, per esempio è arrivato attraverso un primo articolo che è uscito, insomma, un po' più consistente rispetto magari a un piccolo articolo che era uscito su una rivista che si chiamava Nuovo Sound, ma non se l'era veramente filata nessuno, perché invece era Renudo che aveva una tiratura altissima all'interno del movimento e nelle culture giovanili in generale. Quindi un primo articolo esce nel maggio del 77 sul movimento dell'oltraggio, così veniva chiamato il punk. E poi nell'ottobre del 77 c'è l'impatto di massa del punk, e questo avviene attraverso un programma televisivo che è all'interno dei TG2. Raffaele Andreassi, che era un giornalista del TG2, aveva fatto un reportage dall'Inghilterra sulla moda e la musica punk. Dopo da lì, io avendo studiato appunto il discorso che si è prodotto in Inghilterra attorno a questo nuovo fenomeno, poi l'arrivo in Italia attraverso i media, da lì appunto ho cominciato a studiare poi l'impatto reale che ha avuto in Italia e come si è trasformato in una vera e propria organizzazione, un movimento oltre che una controcultura. Ecco, io mi sono focalizzata su Bologna perché Bologna secondo me non era mai stata studiata, cioè c'era proprio questa lacuna, nel senso che è stato scritto tanto su Bologna nel 77, è stato scritto tanto sul punk in Italia, però sul punk in Italia e a Bologna dal 77 in avanti non è stato scritto quasi nulla, se non dai pochi testimoni che hanno scritto qualcosa o che hanno raccontato nei tanti documentari che esistono fino ad oggi. Quindi io volevo fare un po' di ordine su questa storia qua, perché Bologna secondo me era la capitale culturale del movimento del 77 in Italia, perché non c'era paragone con altre città dal punto di vista del fermento culturale. E poi è stata una delle prime scene del punk in Italia che ha dato un indirizzo immediatamente politico al punk, cioè è diventato da lì in poi, soprattutto dal famoso concerto dei Clash in Piazza Maggiore del 1980, da lì in poi il punk ha preso un'altra strada, non era più una controcultura giovanile o un consumo culturale, continuava a esserlo, ma una fetta del punk sceglieva di diventare attivista. Allora, ci fermiamo un attimo, ci ascoltiamo un disco perché che ci guida, da cui che tiriamo via dalle parole di Alessia, che ha parlato di anarcopacifismo, ha parlato di Clash, ha parlato di contestazione Clash e cosa non sentire se non i Crass con White Punks on Hope. Buon ascolto. They said that we were trash, well the name is Crass, not Clash. They can stuff their punk credentials, it's them that take the cash. They won't charge nothing at festival tool, RAR badges and their protest wall. Fans of white men standing in a park, addicted to ISIS and carried in a doll. Black man's got his problems, he's right to deal with it. Tonight for yourself, you're up with your white liberal shit. The good gems take a close look at the way things really stand. Good feeling all just niggers to the rulers of this land. Punk was once and also 2 years of crap. A way of saying no, we'd always said yep. The moment we saw a way to be free, they eventually divided lives through credibility. The qualifying factors of politics and class, lefty macho street fighters with his big cars. I stepped on a racism, I came on the street. It was out of form and fashion for the social elite. Bigotry and blindness, a Marxist god. Another clever trick to keep us all in line. The little labels to keep us all about. Keep us all divided when the travels ben ritrovate, ben ritrovate su Vallun. Ecco, stiamo parlando con Alessia Masini, che ci sta parlando di Siamo Nati da Soli, punk rock e politica in Italia e in Gran Bretagna 1977-1984, sua ultima fatica editoriale. Ci stava raccontando di punk a Bologna, di punk che parte anche come forma di contestazione, diciamo, non solo al sistema c'è che schifo, ma anche come un conflitto reale che si esprime in un territorio molto particolare, perché stiamo parlando di un conflitto che si esprime a Bologna. A sì. Bologna era, diciamo, all'epoca una città di sinistra, era all'epoca una città governata dal Partito Comunista, un Partito Comunista che stava cercando tramite, questo è uno degli aspetti più interessanti, gli altri sono aspetti gustosi, diciamo, del libro di Alessia Masini, che sono proprio belli da leggere, che piacciono a chi è appassionato di musica, che è appassionato di storia. Qua però c'è proprio la ciccia del lavoro storiografico di Alessia Masini, cioè una riflessione sul rapporto fra movimenti giovanili, comune che cerca di mettere in atto un piano giovani che cerca di recuperare quei movimenti giovanili. Ci puoi dire due battute su questo? Sì, allora vi invito a leggerlo, perché in realtà questo è veramente l'inizio di un progetto che poi porterò avanti anche in un altro modo, però è interessantissimo quello che è successo a Bologna in quel momento, perché il comune di Bologna, dopo la rottura del 77 e dopo l'omicidio del Russo, cerca in tutti i modi di recuperare un rapporto e un dialogo con i giovani del territorio. Ci prova in tutti i modi e lo fa attraverso la musica, che in quel momento rappresenta proprio il punto di riferimento di tutte le culture giovanili. Il rock, il punk rock, il punk, la new wave, sono veramente nell'orizzonte dei giovani come un'esigenza culturale nuova. Cosa succede però? Che i punk di Bologna ereditano la rottura che è avvenuta nel 77, quindi loro contestano il comune, qualsiasi tentativo di recuperare il rapporto con i giovani, però istituzionalizzando il loro fermento culturale. Cioè, la contestazione dei clash non era tanto contro i clash, ma era contro i clash che avevano accettato di piegarsi a delle strategie elettorali del comune, e contro il comune che cercava di mettere il cappello sopra a una cultura che non poteva avere padroni, perché quella era la loro cultura, era il punk, viveva da sé. Quindi questa rottura, cioè loro ereditano una rottura dal 1977 e continuano a riprodurla. Poi le cose saranno ancora più complesse, perché comunque nella ricerca degli spazi, ovvero dei centri sociali, i primi centri sociali che si svilupperanno sul territorio, comunque si troveranno delle forme di mediazione. Però comunque la rottura che si verifica nel punk, tra il punk e il comune di Bologna, è importante, perché è rappresentativo di quanto appunto da questo momento in poi i punk di Bologna decidono proprio di intraprendere la strada, quella vera e propria, dell'attivismo, della conflittualità, ecco proprio. E da qui in poi nascerà un vero e proprio movimento, fino al 1984 perlomeno. Allora, questo 1984 avremmo dovuto dire qualcosa, perché è uno degli elementi molto interessanti del libro d'Alessia, che sceglie come date il 1977, di cui ci ha lasciato intendere qualcosa e di cui dovreste sapere qualcosa se ascoltate Vallun tutti i sabati, e poi ci sarebbe questo 1984 che evoca qualcosa tipo Orwell magari, ma questo ve lo lasciamo scoprire leggendo il libro di Alessia. Spoileriamo tutto. Esatto, leggendo il libro di Alessia Siamo nati da soli, punk, rock e politica in Italia, in Gran Bretagna, 1977-1984, Pacini Editore. Allora Alessia, l'ultima battuta per salutarci. Quali sono i prossimi appuntamenti? Allora, i prossimi appuntamenti, le presentazioni. Io sarò oggi pomeriggio ad Ancona all'ambasciata dei diritti a presentare il libro. Poi faremo un salto fino al 13 novembre, che sarà il momento in che darò appuntamento ai bolognesi. Quindi sarò alla libreria Trame in via Goito insieme a Giovanni Catellani, che è un amico di Reggio Emilia, che ha scritto un libro sui Sex Pistols che si intitola proprio La filosofia dei Sex Pistols per Mimesis. Insieme a noi faremo una chiacchierata con Oderzo Rubini e Laura Carroli. Quindi sarà una bellissima iniziativa, vi invito a partecipare. Alle 18, libreria Trame, 13 novembre. Perfetto, poi comunque avremo modo di ricordarvelo. Per ora è tutto, e Frey vi augura un buon proseguimento di giornata. Ringrazio Alessia Masini, Priscilla, grazie per essere stata con noi. Grazie. E appuntamento a sabato prossimo. Noi ci salutiamo con delle note bolognesissime di alla voce sentirete un ragazzo, un giovane nichilista degli anni 80 che adesso continua a essere sul pezzo, ecco, diciamolo. E sì. La cosa che voglio aggiungere è questo pezzo, cioè i Nabat sono importantissimi per questo libro, a parte che ne ho parlato a lungo nel libro, ma perché il titolo del libro, Siamo nati da soli, è una frase che ha scritto Steno, cantante dei Nabat, nel 1980 sulla fanzine Sabotage. Mi è piaciuta così tanto che è diventato il titolo del libro. Una frase bellissima. Innanzitutto, tempi nuovi, Nabat, e buon proseguimento di giornata. Ciao!